Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Decreto sviluppo e rinnovabili, il sì del Consiglio dei Ministri, decisi anche i nuovi sottosegretari. La battaglia non è finita, Hillary Clinton a Roma racconta la cattura di Bin Laden, i 38 minuti più intensi della mia vita. Rifiuti militari a Napoli dal lunedì, annuncia Berlusconi. Benzina sempre più record, superata la soglia psicologica di 1,6 euro al litro. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Le principali notizie le avete sentite nei nostri titoli, ma ad aprire il nostro giornale oggi le parole di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo. Bisognerebbe avere il coraggio di parlare. Certamente qualcuno anche all'interno delle istituzioni sa perché è stato ucciso Antonino Agostino. Qualcuno dovrebbe avere quel minimo senso istituzionale per farsi avanti e per raccontare la verità. Purtroppo certe volte il silenzio, la reticenza, il muro di gomma attorno a determinate vicende scottanti è forse peggiore del segreto di Stato. Far venire fuori la verità, anche se queste verità fossero scomode per settori dello Stato. Uno Stato serio, uno Stato che vuole essere credibile, non deve avere paura, anche eventualmente, a processare pezzi di se stesso. Quella che avete sentito è la voce, dicevamo, di Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Repubblica di Palermo. Dai microfoni di Italia in Controluce manda un appello, l'avete sentito, alle istituzioni nel tentativo di svelare il retroscena dell'omicidio di Nino Agostino, poliziotto della squadra mobile di Palermo, ucciso il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini, insieme alla moglie Ida Castellucci. La sua storia viene ricostruita da Sabrina Pisu. Oggi alle 13.30 Italia in Controluce sentirete anche le voci dei familiari di Nino Agostino che chiedono verità e giustizia da 22 anni. E su questo l'editoriale del nostro direttore Fabio Tamburini. Questo giornale radio, come avete ascoltato, ha aperto l'edizione delle 13 in modo diverso dal solito. Abbiamo scelto di farlo per dare un segnale forte. È finito il tempo dell'omertà e delle reticenze. Il papà di Nino Agostino, il poliziotto ammazzato 22 anni fa in circostanze drammatiche, chiede giustizia. E il magistrato responsabile dell'inchiesta dice: chissà, deve parlare, occorre avere il coraggio di raccontare la verità. Radio 24 li affianca nella loro battaglia. L'Italia è cambiata, sta cambiando, deve cambiare. Le mafie rappresentano un problema dell'intero paese. Lo scontro non è più soltanto in Sicilia o in Calabria, ma anche in Lombardia, come in Piemonte e nel Veneto. Ognuno deve fare la sua parte, la società civile come lo Stato. Il papà, la mamma, la famiglia di Nino Agostino non vanno lasciati soli. E ora andiamo a Palazzo Chigi. Si attendevano oggi decisioni sul fronte economico, sono arrivate, è arrivato anche il più volte annunciato rimpasto di governo, dal premier Berlusconi anche un annuncio che riguarda Napoli, l'avete sentito nei nostri titoli. In questi istanti sta parlando il ministro dell'economia Giulio Tremonti, sentiamo che succede a Palazzo Chigi. Legge finanziaria inglese, zero red tape zone. Noi costituiamo progressivamente, ci vuole. E allora Palazzo Chigi, Alessandra Schepisi, cosa è stato deciso oggi, di cosa si sta parlando? Sì, buongiorno, conferenza stampa dunque ancora in corso, rappresenta anche il premier Berlusconi, un decreto di tutti che non graverà sui conti pubblici, così Berlusconi ha presentato il decreto legge sullo sviluppo approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, provvedimento che contiene misure per la crescita, tra cui meno vincoli per gli appalti pubblici, studi di settore più leggeri, stabilizzazione dei precari della scuola, mutui variabili rinegoziabili, credito d'imposta per l'assunzione al sud. Berlusconi ha poi annunciato nuove iniziative per Napoli, sentiamo la sua voce. A Napoli ancora si sono riformati i mucchi di immondizie per le strade. Abbiamo chiesto ancora una volta l'intervento dei nostri militari, abbiamo già avuto modo attraverso il ministro della difesa di parlare con i generali addetti ai vari servizi e da lunedì metteremo nuovamente in campo i nostri 73 mezzi con 170 uomini per far ritornare Napoli ad essere una città civile. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto sulle rinnovabili per la revisione degli incentivi al fotovoltaico, che di fatto ratifica l'intesa politica tra i ministri Presti, Giacomo e Romani. Arriva anche un pacchetto di nomine che allarga la compagine di governo ai responsabili, agli ex di Future Libertà, deputati che si erano resi decisivi per la sopravvivenza dell'esecutivo dopo la rottura confini: Roberto Rosso all'agricoltura, Luca Bellotti al welfare, Daniela Melchiorre, Giampiero Catona allo sviluppo, Katia Polidori e Bruno Cesario all'economia, Aurelio Misiti alle infrastrutture, Riccardo Villari ai beni culturali, Antonio Gentile all'ambiente. Questi i nuovi sottosegretari, nomine logiche, ha detto Berlusconi. L'ironia da parte dell'opposizione è assolutamente fuori luogo. Ci accingiamo prestissimo a presentare poi la riforma dell'architettura costituzionale dello Stato, annunciato Berlusconi in conferenza stampa. È urgente come la riforma della giustizia, una giustizia che, ha detto il Premier, spaventa gli investitori. Poi ha ricordato la necessità della riforma fiscale, visto il ginepraio di leggi esistenti. Infine, sulla possibile successione da parte di Tremonti, ha detto il Ministro dell'Economia è una persona stimata, ma tutta la squadra del PDL è ottima. E da Palazzo Chigi è tutto, a voi. Grazie ad Alessandra Skepisi. Aggiungiamo che c'è una nota: prendiamo atto che gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non sono stati mantenuti, così Mario Baccini e Giuseppe Galati dei Cristiano Popolari in merito alle nuove nomine di governo. Restiamo ancora a Palazzo Chigi, sentiamo se riusciamo ancora a farvi ascoltare un passaggio del Ministro Tremonti. Pensiamo che la disciplina introdotta col patto di famiglia stabilizzi la proprietà delle imprese e ne favorisca anche la prosecuzione. E c'è una serie molto importante di norme che riguardano il Fondo Centrale di Garanzia, i fondi immobiliari, perché a seguito della crisi c'è stata una concentrazione di enormi patrimoni immobiliari bancari che possono essere messi nei fondi immobiliari, e molte altre norme di questo tipo. Sulla scuola, è già stato detto, stabilizza in modo organico una parte del personale senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, quindi è solo un modo per dare continuità. Viene introdotto un fondo per il merito, per le borse di studio. Ultima norma, servizi ai cittadini, ed è la carta d'identità elettronica, che diventerà un unico documento comprensivo di tutti i documenti dei cittadini. E altre norme, l'autorità per l'acqua e provvedimenti più o meno connessi a questi. È un corpo legislativo molto ampio. Credo e così che sia dunque realmente. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti, sentivate, la conferenza stampa prosegue a Palazzo Chigi, ve ne daremo conto naturalmente più avanti e negli altri giornali radio, e poi a Focus Economia il completo pacchetto per lo sviluppo. C'è stata un'altra importante conferenza stampa però questa mattina a Roma. Sono stati 38 minuti più intensi della mia vita, così il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha definito le immagini del blitz per l'uccisione di Osama Bin Laden, che probabilmente il mondo non vedrà mai. Lo ha fatto questa mattina a Roma dopo l'incontro con il ministro Franco Frattini. L'ha seguita Vincenzo Miglietta. Good morning, and it is a great delight to be here. Buongiorno. Le parole dunque della Clinton in conferenza stampa con il ministro degli esteri Frattini, conferenza che non poteva non partire da Bin Laden, e qui, come avete anticipato da studio, la confessione della Clinton: sono stati i minuti più intensi della mia vita, in un blitz aggiunto professionale senza errori. Quindi la riflessione del segretario di Stato sulla lotta al terrorismo: la battaglia non finisce con una morte, ma di certo l'uccisione di Bin Laden è stato un messaggio inequivocabile della ferma determinazione della comunità internazionale di opporsi al terrorismo. Il capitolo Libia, poi, ricordiamo che è in corso il cosiddetto gruppo di contatto dei paesi impegnati nella crisi. Frattini ha ribadito l'impegno del nostro paese per arrivare a compimento della missione, ha rimarcato la necessità di una soluzione politica ed ha annunciato un fondo speciale per aiutare gli insorti. Ma il segretario di Stato USA e Frattini hanno parlato anche di Siria e del Medio Oriente. Sentiamo su questo Frattini. Abbiamo parlato a lungo dello scenario medio orientale, della situazione in Siria, e l'opinione su cui concordiamo è che debbano moltiplicarsi le azioni politiche, gli appelli per sensibilizzare il governo siriano a cessare immediatamente le violenze. Sulla Siria, quindi, il ragionamento di Frattini: serve più pressione per bloccare le violenze. Da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto oggi il presidente americano Barack Obama andrà a Ground Zero. Si riparte da Ground Zero, ma senza clamori. Barack Obama incontra nel luogo simbolo della guerra contro Al-Qaeda i parenti delle vittime dell'11 settembre, ma spiega la Casa Bianca in modo riservato, senza parate. Intanto la decisione presidenziale di non pubblicare le foto del cadavere di Osama Bin Laden non abbassa l'attenzione sulla morte del leader del terrore. Ieri fonti pakistane hanno fornito le foto di altri morti nel corso dell'azione dei Navy Seals. Oggi il quotidiano saudita Al-Watan, citando una fonte regionale vicina al dossier terrorismo, rivela che Osama è stato liquidato dalla fazione egiziana di Al-Qaeda, guidata dal numero 2 del network del terrore Ayman al-Zawahiri, e che gli americani sono stati guidati alla villa di Abbottabad da un corriere pakistano e non kuwaitiano. Dagli Stati Uniti arrivano nuovi particolari sull'azione. A compierla, scrive il New York Times, è stato il Team 6 dei Navy Seals, segreto e composto dai migliori di ogni reparto. Dianne Feinstein, democratica presidente del Comitato per l'Intelligence del Senato statunitense, ha spiegato che Osama stava per prendere le armi quando è stato colpito e che dunque non c'era altra scelta. In Pakistan il sottosegretario agli esteri facente funzione di ministro Salman Bashir ha definito catastrofica l'eventualità che qualche altro paese segua l'esempio degli Stati Uniti violando la sovranità del paese. Un messaggio lanciato all'India che però testimonia lo stato di tensione che si respira ad Islamabad. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È giusto pubblicare le immagini del cadavere di Osama Bin Laden? Obama sbaglia a farle pubblicare? È stata questa intanto la domanda che vi abbiamo fatto questa mattina nel nostro consueto sondaggio. Avete risposto sì per il 36%, no per il 64%. Sentivate, la Clinton e Frattini hanno parlato questa mattina anche di Siria, dove c'è stata una dura nuova risposta del governo intanto alla rivolta. Lo scorso venerdì le manifestazioni pacifiche a Saqqaba, sobborgo di Damasco. Questa notte la risposta del governo. Centinaia di soldati hanno fatto irruzione nelle case portando via 300 persone. Hanno tagliato le comunicazioni prima di entrare, ha detto un testimone, che ha poi aggiunto: non c'è stata resistenza. Fin qui le notizie che riescono a trapelare, ma in tutto il paese gli arresti sono continui e sistematici. Agli occhi del mondo la Siria può annunciare e mostrare il ritiro dell'esercito da Daraa, sotto assedio dal 25 aprile scorso e teatro della più dura repressione in risposta alle manifestazioni antigovernative. L'esercito ha fatto sapere che la missione è stata portata a termine. Secondo fonti oculari, una quarantina di mezzi tra camion e blindati, decorati con poster del presidente siriano Bashar al-Assad, hanno lasciato la città. La comunità internazionale condanna, ma non va al di là delle sanzioni, già adottate dagli Stati Uniti e ora invocate anche dall'Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi di GR24, decreto sviluppo e rinnovabili, il sì del Consiglio dei Ministri, decisi anche i nuovi sottosegretari. La battaglia non è finita, Hillary Clinton a Roma racconta la cattura di Bin Laden, di 38 minuti più intensi della mia vita, dice, rifiuti militari a Napoli da lunedì, annuncia Berlusconi. E noi ripartiamo dopo le tensioni internazionali dal prezzo della benzina, che intanto corre sempre di più. Ancora un record per la benzina. Secondo la Staffetta Quotidiana, l'agenzia che rileva i prezzi dell'energia, il carburante ha superato la soglia degli 1,6 euro al litro nella media nazionale. Per esso e Total Erg si rileva nel dettaglio un aumento di un centesimo al litro sul costo della verde. I prezzi medi nazionali salgono così a 1,595 euro al litro e 1,601 euro al litro. Con il nuovo record arriva anche l'allarme lanciato dalla Coldiretti. Secondo l'organizzazione degli imprenditori agricoli, in particolare la spesa per trasporti, combustibile ed energia elettrica ha raggiunto il 20% della spesa totale le famiglie, mentre quella del cibo si ferma al 19%. Colpa della crisi energetica, il prezzo di un litro di benzina alla pompa, denuncia la Coldiretti, è ora superiore a quello di un litro di latte fresco. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Notizia di questi istanti, l'OPA da 3,375 miliardi di euro a Lactalis su Parmalat è stata notificata alla Commissione Europea, lo si apprende dal sito dell'Antitrust Europeo, in cui stamane è stata inserita l'operazione con cui il gruppo francese intende acquistare il 71% del gruppo di Collecchio. I servizi del commissario alla concorrenza hanno 25 giorni per decidere se dare il via libera all'operazione. Il verdetto è dunque atteso entro il 14 giugno. E parliamo di Fiat. Sergio Marchionne ha deciso di stringere i tempi per le nuove emissioni obbligazionarie Chrysler destinate a rifinanziare l'indebitamento con i governi canadese e americano. Ieri, incontrando i banchieri, ha dato come termine il 24, questa volta però di maggio, e Mario Platero lo ha intervistato. Cosa da discutere con gli altri soci della Chrysler, quindi bisogna parlare con il trust della Weber e decidere quando conviene a loro andare. Tecnicamente alla Chrysler non servono soldi dal mercato esterno una volta che completiamo questa serie di rifinanziamenti. Quindi è più per dare loro liquidità, per dare la possibilità a loro di monetizzare l'interesse che hanno nella Chrysler. Comunque sarà una svolta dal punto di vista anche della gestione industriale il poter passare in questa seconda fase e quindi risolvere il debito pesante e costoso che c'era col governo americano? Sì, abbiamo già fatto vedere i dettagli, risparmiamo circa 200 milioni di dollari all'anno di interesse, non è che parliamo. 200 milioni? Non sono sciocchezzuole, no? Son bei soldi. E nel conto economico della Chrysler, considerando la fase in cui si trova di rinascita, sono numeri importanti. Poi magari fra 5 anni non farà la differenza, ma adesso importa molto. L'intervista integrale a Sergio Marchionne ve la faremo ascoltare alle 13.45 in America 24. Restiamo ai temi economici. Per attuare il programma di austerity, grazie al quale il Portogallo riceverà gli aiuti dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, serve davvero uno sforzo nazionale, quanto afferma in una nota congiunta il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn e il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn. Un programma molto severo ma realistico, così nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Lisbona, il capo della missione del Fondo Monetario Paul Thompson ha definito le misure che il Portogallo dovrà varare per poter accedere agli aiuti internazionali. C'è un'altra notizia dell'ultima ora, emerge la prova incontrovertibile dell'asservimento della pubblica funzione di Guido Bertolaso dall'inchiesta della Procura di Perugia sugli appalti per i grandi eventi. Così dicono i PM nella loro richiesta di rinvio a giudizio per la presunta cricca degli appalti, secondo gli inquirenti le presunte utilità ricevute dall'ex sottosegretario accusato, ricordiamo, di corruzione, e gli atti al centro degli accertamenti appaiono inquadrabili anche in un'ottica, scrivono i magistrati, di protezione globale. Abbiamo aperto questo giornale radio parlando di mafia, torniamo ancora a parlare di criminalità. Non solo un occhio ai rating, ma maggiore attività sociale e grande attenzione alle imprese che sono state lasciate sole. Anche da Caltanissetta, dove è in corso il convegno organizzato dalla Camera di Commercio su criminalità, corruzione ed evasione fiscale, gli industriali hanno dunque lanciato un forte grido di appello alle banche. A farlo è stato Antonello Montante, delegato di Confindustria Nazionale alla legalità. Montante ha aggiunto anche, proseguendo nell'analisi delle distorsioni finanziarie di mercato, che corruzione e criminalità si ritrovano spesso a braccetto in società di intermediazione finanziaria che riciclano centinaia di milioni. Critiche durissime che hanno aperto il varco a interventi che hanno individuato altre pecche del sistema Italia. Donato Maciandaro, docente di economia politica all'Università Bocconi di Milano, ha detto a chiare lettere che senza uno Stato che sia in grado di portare regole e farle rispettare è compito delle mafie regolare i mercati, mentre Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto a Roma, ha messo la platea di fronte ad un dato non più eludibile, vale a dire una corruzione endemica e di sistema che sballa qualunque regola di sana e corretta competizione. Roberto Calullo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Caltanissetta. Nel frattempo sta terminando la conferenza stampa a Palazzo Chigi, ve ne abbiamo parlato nella prima parte del nostro giornale, è arrivato il sì al decreto sviluppo del Consiglio dei Ministri, tra gli annunci di Tremonti anche l'ok alla Banca del Mezzogiorno, la Banca d'Italia ha autorizzato la Banca per il Mezzogiorno, così ha annunciato Tremonti, da oggi ha detto il Ministro dell'Economia inizia un percorso operativo per strutturare banche popolari di crediti cooperativi, oltre 7.000 sportelli, una cosa molto importante, ha detto Tremonti. Perché nasce un gigante. Un monito all'Europa è arrivato questa mattina a margine di un convegno a Bologna da Romano Prodi. Sentiamo. Noi abbiamo dimenticato l'Egitto, abbiamo dimenticato la Tunisia, noi ci siamo concentrati, come succede sempre, sull'ultima notizia del giornale della Libia. Ma attenzione, in Egitto ci sono 80 milioni di persone e l'economia egiziana è in sfascio e noi facciamo le prediche sulla libertà, sulla democrazia e non aiutiamo la libertà e la democrazia. Mi auguro che almeno adesso, almeno nel medio periodo, questa vittoria contro Bin Laden, dia un orizzonte in cui si trasferiscono risorse e fondi dalla guerra verso la pace. 96 indicatori per capire lo stato di salute della scuola italiana. Oggi la rivista Tutto Scuola ha presentato il secondo rapporto sulla qualità della formazione scolastica. I particolari verranno diffusi nel pomeriggio, ma Romolo Napolitano ha avuto qualche anticipazione da Orazio Di Cefalo di Tutto Scuola. La posizione di alcune province e di alcune regioni è cambiata. Quindi in testa non ci sarà più l'Emilia-Romagna, come era stata l'altra volta, ma un'altra regione, sempre del nord. E anche per quanto riguarda la classifica per province, che l'altra volta aveva visto in testa Forlì-Cesena, insomma viene modificata questa classifica sempre in favore di una provincia piemontese. Di massima possiamo dire, comunque in linea di massima, con un approccio macro, diciamo così, che la distanza tra nord e sud, pur essendo rilevante, però è leggermente diminuita, nel senso che insomma il sud ha fatto qualche passo avanti. Più in generale, la qualità della scuola in questi anni è migliorata, è peggiorata o siamo più o meno allo stesso livello del 2007? Ma sembrerebbe leggerissimamente migliorata. Queste le anticipazioni a Radio 24. Da domani fino al 24 luglio Milano celebra Gio Ponti, uno degli indiscussi maestri dell'architettura del Novecento. Lo fa con due grandi mostre che mettono in luce i vari aspetti della creatività del noto architetto. Palazzo Pirelli ospiterà la produzione di ceramica ideata per la Richard Ginori, mentre alla Triennale saranno allestite oltre 250 opere di Gio Ponti. Il presidente della Triennale, Davide Rampello, al microfono di Adriana Fracchia. Più conosco e approfondisco la storia della Triennale per dire come la Triennale, diciamo, è nata, con che concetti, no? Che è opera di tre personaggi, Muzio, Gio Ponti e Sironi. Ma Gio Ponti è stato il perno. Devo dire che apprezzo quest'uomo, veramente la complessità, la creatività, l'energia, la generosità, mai abbastanza celebrate. Cioè, dovrebbe diventare popolarmente molto più conosciuto, perché è veramente un modello formidabile. Oggi noi parliamo di creatività, parliamo, no, della necessità di fare sistema. Questo uomo qui era di una visione, di una creatività straordinaria, straordinario. Alla Triennale c'è evidentemente l'architettura con tutta una serie di progetti, ma anche l'arredo, ma anche proprio l'oggetto legato all'arredo. E poi in Triennale abbiamo messo simbolicamente una cosa molto importante: l'abbiamo ricostruito il suo studio. Come mai non è stato possibile debuttare con questa mostra a New York? Purtroppo la sede di Triennale, per mancanza di risorse da parte dei partner, non è stata possibile aprirla nei tempi utili. E ora il calcio, con l'ultimo rinnovo del contratto di Del Piero. Lui e Totti ormai sono gli ultimi due poster del calcio italiano. Ma il nostro calcio dove va? Alessandro Del Piero, 36 anni, firma oggi il nuovo contratto che lo lega per il 19° anno alla Juventus. Con la Juventus, sempre in cerca di un nuovo centro di gravità, ha giocato 674 volte, facendo 283 gol, 42 quest'anno. Del Piero arrivò a Torino nel 93, quando c'era ancora la Democrazia Cristiana e non c'erano i cellulari. Nel calcio, e non solo nel calcio, era davvero un altro mondo. Mai più senza Del Piero a Torino, Totti a Roma. Anche il Pupone, 35 anni a settembre, è ancora il motore pulsante della Roma. Superando Baggio con 206 reti, è diventato il quinto bomber della storia del calcio. Anche di lui la Roma non riesce a fare a meno, e viceversa. Totti che racconta barzellette, Totti che fa gli spot, Totti che è il cuore di Roma. Totti e Del Piero sono i nostri due ultimi poster che girano il mondo. Dal Giappone all'America Latina tutti li conoscono, tutti vogliono la loro maglia, ma sono gli ultimi. Poi i calciatori italiani non li fila più nessuno. Ballotelli a parte, ma lui finora è conosciuto per altri motivi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo si chiude anche la nostra edizione delle 13 di GR24, che vi aspetta come sempre alle 14. Vi ricordo Italia contro luce, poi America 24. Le anticipazioni sui temi ve le abbiamo già date. Noi davvero ci fermiamo qui. Pietro Lacorte in regia. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.